Siamo con l'attore Ettore Bassi che sarà in scena con lo spettacolo Il Sindaco Pescatore dal libro di Dario Vassallo al Teatro Quirino a Roma l'11 maggio. Ettore, benvenuto. Ciao, grazie. Ciao. Lo descriviamo brevemente? Ma guarda, questo è uno spettacolo che io sto portando in giro ormai da quasi 3 anni per la terza stagione con grande amore, con grande dedizione, perché è un piccolo gioiello nato dalla passione, dalla volontà di portare in scena una storia importante ma poco conosciuta, perché questo Angelo Vassallo è stato un piccolo grande eroe moderno. Di cui si sa veramente poco, e il fatto che se ne sappia poco è grave perché lui è stato un sindaco di un paesino del Cilento, quindi nella regione sotto Salerno, sul mare, e per 15 anni lo ha fatto diventare un territorio meraviglioso. La cosa che ne fa una storia da raccontare è che dopo 15 anni di successi e di incredibile amore e sinergia con il proprio territorio, con i propri concittadini, eccetera, lui viene ucciso con 9 colpi di pistola e nel 2010, e da allora ancora non si riesce a sapere, a capire chi sia stato materialmente, chi sia stato il mandante, quali siano stati i motivi, eccetera. E quindi è stata fatta anche una fiction per Rai 1 2 anni fa con Castellitto. In quel periodo io ero già al lavoro sullo spettacolo teatrale. Per cui è una storia che sta crescendo sempre di più, ed è uno spettacolo che ormai mi stanno chiedendo ovunque. L'abbiamo portato a San Carlo a Napoli, invitati direttamente dal sindaco De Magistris, che ha fatto una serata evento a San Carlo appunto il 24 aprile, e adesso non vedo l'ora di essere a Roma finalmente venerdì prossimo. Ettore, come era partito il progetto a partire da questa vicenda e anche dal libro di Dario? Ah, guarda, è partita in modo molto casuale, nel senso che Dario Vassallo, quindi il fratello di Angelo che poi ha scritto il libro, è il papà di un ragazzino che è stato compagno d'asilo di una delle mie figlie. E un giorno ci siamo ritrovati a una festa di compleanno appunto di suo figlio, e abbiamo cominciato a chiacchierare, ed è venuta fuori la storia di Angelo e il fatto che lui avesse appena scritto quel libro. Io mi ci sono appassionato, insomma, mi sono incuriosito, gliel'ho chiesto, me lo sono letto, e dopo 2 giorni sono tornato da lui dicendogli: ma questa storia è incredibile, io la devo raccontare, voglio farne uno spettacolo a teatro. E così è nato. Senti, cosa hai apprezzato di più della sua figura? Guarda, semplicemente il fatto di essere una persona normale, perché la cosa straordinaria di quest'uomo è che non ha fatto niente di speciale, nel senso di, come dire, esteticamente clamoroso, eclatante. Lui ha fatto cose semplici, ha fatto cose normali. C'era da ripulire i fondali del mare perché lì davanti erano inquinati e sporcati dalle immondizie, eccetera, e li ha ripuliti. C'era da fare la raccolta differenziata, eccetera, e l'ha fatta. C'erano da fare case popolari e le ha fatte. C'era da aiutare qualcuno che aveva problemi di cose anche semplici. Era uno che passeggiava per il paese, era uno che sentiva l'umore delle persone. Quindi il suo motto era: dalle piccole cose nascono le grandi. Per cui la cosa che mi ha colpito è semplicemente il fatto di essere una persona che faceva cose logiche per il bene del proprio territorio. Come avete pensato la messa in scena? In una maniera molto, molto semplice, perché io sono da solo, c'è però un insieme di ingranaggi che si muovono con me, da voci fuori campo, ovviamente una colonna sonora bellissima che ci ha composto apposta per noi Pino Donaggio. E poi soprattutto la cosa più importante è la presenza sul palco di un gruppo di ragazzi del liceo, di età di liceo, che io recluto sul posto ogni volta che arrivo in un posto nuovo, faccio con loro 3 ore di training prima dello spettacolo e poi li porto sul palco. E loro sul palco recitano proprio con me, quindi fanno proprio lo spettacolo con me. E questo perché noi abbiamo voluto, insieme a Enrico Lamanna, il regista, raccontare che questa è una storia per i giovani, che va veicolata dai giovani attraverso di loro, che nel frattempo poi saranno in qualche modo portatori e testimoni. Quindi immagino che abbiate trovato anche un canale con le scuole. Sì, con le scuole abbiamo lavorato molto, io l'ho portato in tanti spettacoli, in tante date, proprio per le scuole, ne abbiamo fatte diverse di repliche ed è sempre una bella emozione. E poi per loro è molto bello vedere i propri compagni sul palco, ragazzini che non hanno mai fatto teatro, quindi vedere come il teatro poi in realtà può essere agito in modo semplice, in modo naturale, ma in modo poi straordinario e fortemente d'impatto, quindi è stata secondo me una trovata vincente. Ettore, in chiusura ci sono dei riferimenti web per saperne di più, una pagina Facebook, un sito internet? Ma c'è la mia pagina Instagram, Ettore Bassi Official, su cui aggiorno, e la mia pagina Facebook, su cui tengo aggiornati gli amici, i fan, tutti quanti sulle mie cose, tra cui adesso ovviamente questa bellissima serata. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento con il sindaco Pescatore al Teatro Quirino a Roma l'11 maggio. Un saluto e un ringraziamento ad Ettore Bassi che lo porterà in scena. Grazie, grazie mille, ci vediamo a teatro.